Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Avete sentito l'anticipazione nel giornale radio, oggi parliamo ancora una volta delle assicurazioni auto. Al di là del fatto che stiamo registrando un aumento costante delle tariffe per le famiglie, dove non vengono più premiati neanche i comportamenti più virtuosi degli automobilisti, per tutta una serie di questioni sulle quali abbiamo ragionato davvero tante volte, non ultima una puntata di Salva Danaio del 6 ottobre, anche a seguito di una nuova denuncia del presidente dell'antitrust, Catricalà, che in un'audizione al Senato aveva sottolineato che si continuano a registrare sensibili incrementi dei premi, specie per determinate categorie di utenti e di veicoli. E di quali categorie di utenti stiamo parlando? Sembra, e qui aggiungiamo un nuovo capitolo a questa vicenda nella puntata di oggi di Salva Danaio, che stia scoppiando una vera e propria emergenza nel Sud Italia, da dove, secondo le associazioni dei consumatori, le compagnie si stanno progressivamente allontanando, non assicurano i neopatentati. E se lo fanno, per esempio, lo fanno a tariffe molto alte. Questo è quanto ci segnalava qualche giorno fa un amico di Adiconsum, Fabrizio Premuti, segretario nazionale di questa associazione dei consumatori, referente per le problematiche legate al settore assicurativo. La situazione del Sud sta precipitando, sono migliaia i clienti RC Auto che non possono più rinnovare i contratti, per i quali nel giro di un anno si richiedono premi anche triplicati, un disagio sociale che può diventare addirittura un nuovo caso Monnezza. Fabrizio Premuti, buongiorno, ben trovato a Salva Danaio. Buongiorno a voi. E allora, addirittura ho trovato un articolo in un'altra testata che parla, utilizzando dei termini anche piuttosto forti, non voglio dire esagerati, ma comunque insomma tante volte per richiamare l'attenzione generale su un certo tema, la terminologia che si usa è sempre piuttosto anche insomma forte. Pulizia geografica, razzismo assicurativo, poi ci dirà insomma perché addirittura siamo dovuti arrivare a descrivere questa situazione con queste parole. Però di fatto c'è anche l'ISVAP, che è l'organismo di vigilanza sul settore assicurativo, che ha aperto l'istruttoria nei confronti di 8 compagnie per sospetta elusione dall'obbligo a contrarre. Tutto questo, peraltro, siccome non è che poi le compagnie lo fanno perché si divertono a farlo, poi lo spiegheremo, di fatto insomma considerano queste zone a rischio per determinati motivi, ce li spiegherà Vittorio Verdone, direttore auto, consumatori e distribuzione dell'ANIA, appunto l'associazione delle compagnie di assicurazione in Italia. Verdone, ben trovato anche lei a Salva Danaio, buongiorno. Buongiorno a tutti. C'è anche una novità dell'ultima ora, sembra che in finanziaria, fra le norme inserite dal governo nel maxi emendamento, potrebbe trovare spazio anche una stretta antifrodi, siccome anche questa è la situazione che sta portando ad un'esplosione delle tariffe al Sud e anche alla volontà delle compagnie di non assicurare più certe categorie. Addirittura si parla, per chi froda la compagnia, di carcere da 6 mesi a 4 anni. È un tema che si presta dunque a tante assicurazioni, a tante considerazioni. Io stamattina inviterei tutte le persone del Sud Italia che ci ascoltano e che si sono trovate a discutere con la propria compagnia in questo periodo, perché la compagnia ha proposto una revisione della tariffa con un incremento insostenibile, insopportabile, insomma, anche se magari nella vostra vita non avete mai registrato incidenti, insomma avete avuto un comportamento alla guida ineccepibile, e però la compagnia col vostro assicuratore il rapporto in sostanza sta cambiando. Cosa è successo? Raccontatecelo all'800240024, oppure scrivetecelo al 349-238-6666. Prima però di partire con Vittorio Verdone e Fabrizio Premuti, parto con un'altra persona questa mattina, che è Alberto Genovese, socio fondatore di Assicurazione.it, che è uno dei portali che in questi anni sono nati proprio per permettere la comparazione di tariffe, in questo caso appunto evidentemente dal nome specializzata nel settore assicurativo, perché agli amici di Assicurazione.it abbiamo chiesto di elaborarci alcuni preventivi, naturalmente prendendo a spunto alcuni profili specifici, per capire se è vero che c'è una differenziazione abnorme di applicazione di tariffe tra per esempio Milano e Napoli, tra Milano e Roma, tra Milano e Palermo. Genovese, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, facciamo questi esempi che ci siamo preparati, così facciamo rendere conto anche a tutti gli ascoltatori che magari credono che stiamo parlando di una polemica che non ha alcun senso, quanto questa situazione sia effettivamente vera. Ammettendo di avere di fronte così a noi un uomo che guida una Ford Focus 1008, è sposato, fa 20.000 km annui, ha una classe di merito 1, fa l'impiegato, la sua auto non la guida esclusivamente perché la può guidare anche la moglie, quanto pagherebbe a Milano, quanto a Roma, quanto a Palermo, quanto a Napoli genovese? La tariffa media su Milano che abbiamo calcolato dalle nostre compagnie partner è di 436 euro, che diventa 558 a Roma, 613 a Palermo e 1013 euro su Napoli. E insomma, quindi tra Napoli e Milano abbiamo 4, 8, 12, praticamente quasi il triplo. Andiamo invece ai profili più problematici per le compagnie di assicurazione. Un diciottenne neopatentato... Che tipo di proposte si sente ricevere da una compagnia di assicurazione? Chiaramente poi non so se... Nell'esempio che noi abbiamo fatto è un neopatentato che guida una macchina 1200, quindi una Renault Clio nell'esempio. A Milano il premio medio delle compagnie con cui lavoriamo era 2242 euro, che diventano 2738 a Roma, 3048 a Palermo, 4521 su Napoli. Una donna di 35 anni coniugata con figli minorenni, guida una Opel Corsa, è un'insegnante, è una guida esperta, non ha mai avuto incidenti, che trattamento ha a Milano e che trattamento avrebbe a Napoli? 520 euro tondi a Milano, 1366 a Napoli. Senta, genovese, il vostro preventivatore, il vostro cerca tariffe, avete fatto caso se in questo periodo, proprio per le problematiche di cui stiamo parlando questa mattina, viene particolarmente ricercato e utilizzato da famiglie del sud che hanno difficoltà a stipulare o a rinnovare l'assicurazione con la propria compagnia storica? Ma la verità è che noi non vediamo un picco di accessi dal sud, perché probabilmente ha negato nel fatto che il preventivatore ha 2 anni di vita, non di più, quindi la crescita degli accessi al servizio che vediamo è ancora così forte che distinguere dei fenomeni particolari nelle diverse parti d'Italia è difficile. Quindi questa statistica, diciamo, voi non ce la potete dare. Di fatto del problema di cui parliamo stamane che cosa pensa? Ma il problema prima stamani è che mi è piaciuto, lei un momento fa ha detto le compagnie non lo fanno perché si divertono. Perché per loro è business che manca, voglio dire. È evidente ed è un fatto che nessuno contesta, che la disparità di tariffa tra clienti più a rischio, cioè il diciottenne a Napoli, clienti meno a rischio, cioè la signora 54enne di Bergamo, è macroscopica, no? Cioè, a volte anche un fattore di 4-1. Tra i profili più a rischio e i profili meno a rischio. Però nonostante questo le compagnie continuano a perderci tanti soldi sui profili più difficili. Quindi è molto molto difficile riuscire a trovare un ragionevole compromesso tra il fatto che il prezzo dell'assicurazione sia equo e il fatto che le imprese assicurative riescono a stare in piedi economicamente. Benissimo, benissimo, insomma mica tanto. Genovese, intanto grazie per aver lavorato per noi questa mattina, adesso andiamo nel merito del dibattito con Vittorio Verdone e Fabrizio Premuti. Però a Premuti vorrei anche così far rispondere alla osservazione che ho fatto io: le compagnie non si divertono, che è piaciuta tanto ad Alberto Genovese. Di fatto in questo momento comunque molte stanno scappando, c'è un caso piuttosto clamoroso perché la più grande compagnia di assicurazione che opera al sud sta veramente dando indicazioni precise ai propri agenti di non contrarre più contratti per l'appunto con gli assicurati storici. Insomma, adesso io, a parte che gli anche chiamati, non vogliono intervenire questa mattina, comunque ho dato anche loro questa opportunità, possiamo anche fare tranquillamente nomi e cognomi perché di fatto la situazione esiste. Premuti, allora Inas Italia sta proprio dando, se non ho capito male, perché questo è l'oggetto della vostra denuncia, specifiche indicazioni ai propri agenti di o triplicare le tariffe o evitare appunto determinate zone. Ci può raccontare che cosa sta succedendo e per quale motivo lei sta proprio denunciando in maniera così forte da qualche tempo a questa parte questa situazione? Sì, molto volentieri. Beh, per ritornare un attimo all'osservazione di prima, non si stanno divertendo? Sicuramente no, non si stanno divertendo perché dovranno fare i conti comunque con l'istituto di vigilanza che in questo caso, tramite le istruttorie, io credo andrà veramente a fondo. E non si divertono per questo, perché poi per il resto io considero che c'è veramente una scarsa responsabilità sociale in ciò che sta accadendo nelle regioni del sud. Inas Italia in particolare, e qui probabilmente ha avuto uno scivolone perché l'ha messo per iscritto, gli altri probabilmente lo faranno lo stesso senza scriverlo, ci indica tre regioni nelle quali vanno date addirittura disdette di massa. La spiegazione, e le spiegazioni qui possono essere due. La prima, le compagnie si stanno vendicando di ciò che è accaduto alla Corte europea, e cioè della conservazione in Italia dell'obbligo a contrarre sulla RC auto, e si vendicano cercando di scappare dal sud. La seconda spiegazione, le compagnie effettivamente non riescono a guadagnare al sud, scappano dal sud per tenersi i clienti che loro ritengono buoni del nord, però questo è un gatto che si morde la coda, perché tu scappi dal sud, non incassi al sud, quindi effettivamente si fa meno business, ma gli incidenti non è che diminuiscono, gli incidenti ci saranno lo stesso, probabilmente non li pagherà direttamente l'impresa, ma li pagherà il fondo di garanzie vittime della strada, cioè li paghiamo tutti noi che rimaniamo assicurati. Perché c'è il principio della mutualità, però Premuti, lei deve anche riconoscere che se addirittura il governo è arrivato ad inserire nel maxi emendamento allegato alla finanziaria, tra le norme appunto, un'ipotesi di una stretta antifrode, perché comunque l'attività fraudolenta sul settore assicurativa è molto alta, e questo sta comportando anche un inasprimento delle tariffe, diciamo di natura un po' più fisiologica, se vogliamo, insomma questo è un problema che esiste, e di fatto voi come lo considerate questo? Ma assolutamente sì, tra l'altro noi siamo stati, non oggi ma qualche anno fa, tra i promotori che hanno inteso cogliere al volo il problema delle truffe, siamo stati sicuramente tra i primi che hanno chiesto l'introduzione di un'agenzia antifrode, e tanto questo è vero che tutte le nostre audizioni in Commissione Finanze, fatte anche ultimamente, anche quest'anno, stanno lì per iscritto a rimarcare la necessità di essere molto più attenti al fenomeno delle frodi, molto più attenti al fenomeno delle speculazioni, che frodi non sono, ma comunque sono comportamenti scorretti. La risposta delle imprese in tutti questi anni comunque è stata quella di fuggire dal sud. Lei e anche i nostri radioascoltatori debbono pensare che un liquidatore, cioè un addetto al pagamento dei risarcimenti a sud, oggi si trova davanti a un carico di lavoro che sono le 3-4 mila pratiche l'anno, contro un liquidatore del nord che ne deve vedere 500, 600, 700. Questo che vuol dire che a sud non c'è neanche la possibilità di poter andare ad indagare. Se le imprese per prime scappano, chiudono gli uffici, invece di rafforzare il presidio, per esempio, della liquidazione. Premuti, guardi, no, non è per maleducazione, devo andare in pubblicità perché altrimenti mi tagliano. Però io, tra l'altro, ho messo anche nel nostro carrello un bel po' di argomenti per Verdone, che sicuramente non mancherà adesso anche di così presentarci la difesa dell'associazione di categoria, ricordando anche che l'ISVAP ha annunciato che dal 1 gennaio diventerà operativa la banca dati antifrodi. Anche questo chissà se diventerà uno strumento appunto per poter ridare una situazione di equilibrio rispetto a tutto quello che stiamo denunciando. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. È già pronto un napoletano, non vedo l'ora di sentirlo, che è Roberto, tra pochissimo. E sì, abbiamo un bel po' di carico pubblicitario in questo periodo, però ecco, insomma, siamo ritornati in diretta. Questa mattina abbiamo affrontato l'argomento che è stato sollevato pesantemente dalle associazioni dei consumatori di recente, cioè relativamente al fatto che le compagnie di assicurazione stanno fuggendo dal sud e non vogliono più assicurare. Allora, come deterrente utilizzano naturalmente la richiesta di tariffe, premi triplicati, raddoppiati, triplicati, insomma il rinnovo delle polizze. Tutto questo sta un po' scoppiando, e ovviamente tanti commenti da parte vostra. Io vorrei anche evitare tutti quelli che fanno delle considerazioni un po' demagogiche, come al solito: il sud gli sta bene, tutte queste cose qua. Evitiamo considerazioni di questo tipo, perché non mi pare il caso. La situazione problematica c'è, l'attività, come dire, fraudolenta intorno alle assicurazioni. Verdone dell'ANIA, li hanno anche chiamati adesso i furbetti del collarino, ha visto stamattina sui giornali, questo è un po' lo spirito con il quale potrebbe partire questa norma che porterà ad una stretta antifrode. Detto questo, so che si è scaldato parecchio nella prima parte della trasmissione, cioè le abbiamo permesso di scaldarsi un po' per raccontarci un po' l'ANIA come sta così ragionando intorno alla situazione che le associazioni dei consumatori stanno denunciando. Che succede al sud? Innanzitutto io credo che sia una questione di correttezza di linguaggio, abbandoniamo per favore i termini tipo vendicarsi piuttosto che pulizie. Sì, sa, tra l'altro me ne ero dimenticata, ma lo volevo dire anch'io. Perché le compagnie non sono persone, diciamo, che in questo caso applicano sentimenti così detriti, diciamo, non esiste questa concezione. Ma il Sud Tra l'altro non è solo il sud, ci sono delle zone notoriamente più a rischio per l'attività assicurativa e questo dipende da tanti fattori. Certamente per le compagnie di assicurazione dipende dalla verifica con dati statistici di quello che succede. I dati statistici hanno sempre evidenziato differenze nella sinistrosità, vale a dire nel numero degli incidenti che vengono provocati in alcune zone rispetto alla media e rispetto alle altre zone, e hanno anche evidenziato quello che succede su quello che lei diceva prima, i furbetti del collarino. Sono purtroppo non solo i furbetti che prendono, diciamo, il risarcimento, ma tutto un mondo che gira intorno a questi furbetti, che alla fine diventano tantissimi. Quello che per esempio dopo un incidente si fa certificare dal medico una microinvalidità permanente, tanto per dirne una. È abbastanza strano, se vogliamo, osservare che in alcuni di questi territori più a rischio, per esempio, su 100 sinistri 40 non danno alla persona. La media italiana è già molto alta, ma è alzata da queste zone, che è il 21%, la media europea è il 10%. Questo è un dato su cui riflettere, perché se noi continuiamo a girare intorno al problema prezzi, ma non andiamo a verificare quello che c'è dietro la formazione del prezzo dell'RC auto, il problema non si risolverà mai. Ma io credo che questo lei invitava gli ascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento a segnalarci, no, i casi di aumento dei prezzi che gli ha comunicato la compagnia, io inviterei anche a segnalarci quello che succede, che loro sanno che succede in questo mondo, perché tutti sanno che il vicino, non dico loro direttamente, non lo faranno mai, non telefoneranno mai, il vicino, il parente magari non troppo stretto, e insomma qualche responsabilità ce l'ha nel momento in cui fa le speculazioni e nel territorio di questa persona che si lamenterà del prezzo magari sono più diffuse. Sono fenomeni noti a tutti, noi da anni, ma anche con le associazioni dei consumatori con cui nel nostro forum Ania Consumatori, e Premuti lo sa bene, stiamo disquisendo, ma non a fini, diciamo, di teoria che non serve a niente, ma di proposta congiunta di intervenire con alcune soluzioni importanti e radicali in questa materia. Se non si vuole intervenire, il problema rimane e non è che verrà risolto da una legge che inasprisce, diciamo, gli anni di reclusione per chi verrà scoperto a frodare l'assicurazione, perché il problema è scoprirli, ma non scoprirli per sentito dire, perché uno lo intuisce con elementi che uno possa sostenere in un giudizio penale. E quindi il problema è quello di dar vita a un organismo antifrode che possa investigare, incrociare dati. E infatti mi pare che ci si stia arrivando. Ma l'aspetto più importante è che la compagnia di assicurazione, quando ha un indicatore di frode su un sinistro, non può essere soggetta a una normativa che la obbliga comunque o in 30 o in 60 giorni a fare un'offerta di risarcimento. Quindi bisogna intervenire anche su quell'aspetto, cioè bisogna togliere a chi ci prova la possibilità di farlo. Perché se no non si risolve il problema, bisogna sospendere le procedure liquidative, benissimo, quindi il risarcimento dei danni rispetto ai casi in cui dalla banca dati ISVA, che è un grande passo avanti perché sarà più funzionale sicuramente l'anno 21, emergerà un indicatore di frode rilevante, perché altrimenti noi siamo bloccati da questo punto di vista. Ma Verdone, quello strumento lì di cui mi sta parlando, che dovrebbe partire da gennaio appunto per iniziativa dell'ISVAP, tra l'altro l'ANIA aveva anche un'iniziativa parallela che era quella dell'agenzia antifrode, non so se poi le risorse, come dire, le forze possono essere messe in campo tutte nello stesso identico organismo, ammettendo che quello istituzionale che partirà sia quello dell'ISVAP, appunto la banca dati antifrodi, quella secondo lei permetterà anche di fare una selezione della clientela sul territorio da parte delle compagnie? Mi spiego, cioè è chiaro che la compagnia si deve difendere da atteggiamenti fraudolenti che poi rischiano appunto di spalmarsi su tutti gli altri ed è quello che sta accadendo, ma in questa maniera una compagnia riuscirà ad operare più serenamente sul territorio considerato a rischio e quindi magari colpendo i furbetti del collarino, ma continuando a trattare con serenità e premiando i clienti più virtuosi, quelli che appunto evidentemente hanno un trascorso di automobilista appunto trasparente senza problemi. Si riuscirà ad arrivare a questo secondo lei? Ma secondo me questo è impossibile con la normativa sull'obbligo a contrarre. Adesso ognuno la può pensare come vuole, le faccio un esempio: non siamo l'unico paese che è afflitto dalle frodi, per esempio la Gran Bretagna è un paese in cui se ne fanno tantissime. La differenza è che quando viene scoperto il frodatore inglese, questo qui non si assicura più, perché lo Stato ha deciso che costui non è degno di partecipare alla convivenza civile. Quindi perché si dovrebbe assicurare? Non deve proprio più circolare. Allora, se noi invece, con una normativa che capisco le ragioni, lo sappiamo, la funzione è quella che tutti i veicoli che circolano e possono causare danni, anche seri, siano assicurati. Però se abbiamo una normativa così stringente, la compagnia, infatti quando si dice fuga dal sud, la compagnia comunque deve quotare i rischi, e quindi anche nei casi in cui tenta di riequilibrare il portafoglio, perché teniamo conto che la compagnia deve avere risorse per pagare i sinistri, quindi i premi devono essere correlati a questo. Se ci sono degli squilibri tali per cui sa già con certezza che il fabbisogno non viene coperto in alcune zone da certi livelli, ha in questo momento uno strumento che è necessario e quasi obbligato, perché la compagnia non può stare in perdita per anni e anni consecutivamente, ma perché sì, rischia il fallimento, ma il fallimento di una compagnia messa così è ragionevole, è un fallimento quello che va, le voglio far sentire va, i danni di tutta la collettività. Allora voglio far sentire una testimonianza di un'ascoltatrice, so che ci sono Roberto e Roberto, uno da Napoli e uno da Reggio Emilia, che stanno aspettando da un po', però ci piace così tanto quello che ci vuole raccontare Patrizia dalla provincia di Trapani, che voglio far subito intervenire la nostra amica. Patrizia, buongiorno. Buongiorno a voi, sì, sentivo la trasmissione e mi è piaciuto molto anche il suo commento sul non insultare le persone. Ma in modo sì, vabbè, generico, la generalizzazione sa com'è, ci piace sempre, no? Pur di scrivere un messaggio alla radio, magari di far parlare di sé, sa, scrivono sì, un po' i qualunquisti, però vabbè. E invece io volevo dire questo, che tutto il mondo è un paese e questo lo si sa già, tant'è vero che io ho un cognato che abita nella provincia di Milano e ha giocato da sempre con le assicurazioni in questo senso negativo, che per me è stato sempre criticato da me ed è stato sempre non condiviso il modo di fare. Ma come fa a farla franca, Patrizia? Ma ci racconti un po' anche il giochetto di suo cognato, se non ho capito male. Che cosa fa? Sì, mio cognato si è acquisito. Sì, giocano con le assicurazioni, si mettono d'accordo tra gli avvocati, tra i medici, c'è tutta una cricca, insomma, e che fanno questo tipo di cose. Io credo che con questo giochetto ci abbiano guadagnato parecchio. Però voglio dirle che appunto per quanto concerne invece Sud, intanto non si è tutti uguali, sono persone e persone, credo poi che questi soggetti sono recidivi, continuano a farlo, quindi basterebbe poco per isolarli. E infatti era quello che volevo dire anche a Verdone. A me è successo l'episodio che in una strada buia proprio del centro cittadino, perché si era rotta l'illuminazione e il comune, come succede in questi casi, non provvede immediatamente, un ragazzo aveva posizionato il motorino proprio appiccicato alla mia macchina, nel fare retromarcia, non l'ho visto proprio, è caduto il motorino e gli si è rotto il parabrezzi davanti. Vabbè, insomma è stato danneggiato. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi d'accordo, dato che il danno era sulle 100 euro, neanche abbiamo fatto l'assicurazione. Gliel'ho pagato, siamo andati insieme a ricomprare il pezzo e abbiamo risolto il problema. Quindi voglio dire, ci sono persone che dell'assicurazione se ne approfittano e persone invece... Che con il buon senso possono risolvere, certo. Trovare quando il danno è minimo, quando il danno è ragionevole. Oppure la utilizzano proprio come strumento di tutela, qual è, quindi nella piena correttezza. Patrizia, io la ringrazio, devo andare ai suggerimenti per chi è in viaggio, no, non siamo ancora pronti, e però insomma io condivido pienamente tutto quello che ci ha detto, sono sicura che anche Fabrizio Premuti sarà su questa linea, così come Vittorio Verdone, però di fatto un problema c'è e anche le persone più serie, più corrette alla guida stanno appunto subendo questa situazione, sempre per la questione dei furbetti del collarino, dobbiamo proprio banalizzarla la questione, però di fatto anche il principio della mutualità che è alla base del sistema assicurativo mondiale porta anche a questo. Detto questo, adesso poi mi piacerebbe capire anche da Vittorio Verdone, lo sentiremo dopo i suggerimenti perché in viaggio, come comunque intende anche l'industria di categoria gestire questa faccenda, perché in ogni caso un problema si è creato se le persone non vengono assicurate, come deve fare il Mezzogiorno adesso? A tra poco. Allora, c'è un'ascoltatrice, Stefania, che ci scrive: nell'ultima audizione parlamentare di categoria sono emersi dati sulle truffe assicurative al sud senza precedenti, dati questi numeri e poi ragioniamoci. Il numero, Stefania, l'ha dato Vittorio Verdone poco fa, 40%, Cerchia in questa audizione del 13 luglio aveva proprio detto: l'Italia presenta un onere complessivo dei risarcimenti in relazione alla loro frequenza e al loro costo medio maggiore degli altri paesi europei. Il fenomeno stesso assume proporzioni estremamente diversificate fra area ed area del territorio nazionale, raggiungendo una percentuale di incidenza superiore al 40% in Puglia, è la cifra che Verdone ci ha dato prima. Peraltro queste cifre sono state riprese anche in una audizione che è stata tenuta in Senato settimana scorsa da Fabio Buscarini, l'amministratore delegato di INAAS Italia, che è la compagnia che è finita nel vortice della polemica proprio in questi giorni. E allora, un altro paio di considerazioni degli ascoltatori per poi concludere il nostro giro di chiacchiera questa mattina con Vittorio Verdone e Fabrizio Permuti. Poca chiacchiera, per la verità, molta concretezza su un problema molto serio. Roberto da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sono un operatore del settore, sono un patrocinatore stragiudiziale, del cui ho, nel mio piccolo, ho il metro della situazione per quanto concerne la provincia di Napoli. Ebbene, mi duole dire che le compagnie assicurative, è vero che sono sotto pressioni enormi, infatti anche con l'avvento del risarcimento diretto sono a conoscenza di eventuali pressioni nell'ambito del risarcimento card a doppia firma di 3.000 euro pagate da alcune compagnie di assicurazioni ad occhi chiusi. Sono strumenti finanziari oggi come oggi le compagnie di assicurazioni, non coprono più il rischio ma provvedono solamente a elargire soldi per richiedere soldi alle loro consorelle nell'ambito della gestione card. Ma è anche vero, ma è anche vero, se mi consente, dottoressa Rosciani, di dover dire che le compagnie assicurative dal 95 in poi non fanno altro che scaricare sugli assicurati i costi dei loro mancati investimenti. Lo stesso dottor Giannini dell'ISVAP lo ha ribadito un anno fa, perché loro, anziché investire in personale per poter meglio gestire i sinistri e anziché pagare di più i periti delle assicurazioni per poter meglio e qualificare delle voci di danno, preferiscono chiudere gli occhi, sottacere a delle pressioni di organismi compiacenti tante volte e scaricare normalmente il premio il maggior costo sul premio, poi non viene toccato minimamente quello che è l'utile delle compagnie assicurative. Quindi insomma intensificare il presidio della struttura liquidativa. Roberto, la ringrazio, vorrei andare anche agli altri ascoltatori perché qua oggi la puntata ci è veramente scivolata di mano. Roberto dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Roberto, buongiorno. Lei conosce un assicuratore che mi diceva conosce bene la situazione al sud, ha lavorato lì, Roberto? No, non ho lavorato lì, la seguo perché lavoro per una compagnia ed evidentemente è un tema che ci troviamo costantemente ad affrontare. Allora, in sintesi, cercando di essere obiettivo, nel senso che non sono di parte, ma perché non credo che il problema sia di parte, il problema secondo me è di carattere sociale, e cioè è evidente che al sud fare attività di impresa assicurativa non è redditizio, e questo è un dato di fatto. Nei numeri. È altrettanto evidente che il principio di mutualità a cui si rivolgono molto spesso le associazioni di consumatori è di difficile applicazione, perché non riesco a scaricare, tra virgolette, secondo un corretto principio di mutualità, al nord quello che va a generare di perdita al sud appena di uscire anche dal mercato del nord, perché oggi al nord c'è della concorrenza. Allora, se io compagnia sono presente al sud e voglio fare mutualità, rischierei di avere delle tariffe al nord che mi fanno uscire dal mercato, perché se qualcun altro che magari è meno presente al sud non ha questa esigenza di mutualità spinta, va a finire che... E quindi c'è un problema in cui... Roberto, mi scusi, la sua compagnia, le risulta che ai suoi colleghi del Sud Italia abbia chiesto di triplicare le tariffe agli assicurati o addirittura di non tutelare più alcune aree? La mia compagnia, così come molte, mi risulta che stia adeguando le tariffe a quelle che evidentemente sono le situazioni di sinistrosità che si sono impennate, in particolare evidente in un periodo di crisi diventa un ammortizzatore sociale la polizza. Quindi mettiamoci un collare, facciamo magari un finto tamponamento in modo tale da andare ad un medico compiacente che ci certifichi questa lesione. Giuseppe da Caserta, lei è un medico, e allora come la mettiamo anche con le accuse che vi sono piovute addosso stamattina? Ma non è questione che venga, è il sistema che bisogna cambiare, perché nel momento in cui si fa una diagnosi, una prognosi, certamente la prima prognosi soprattutto dovrebbe essere ben correlata, perché altrimenti è subito dare, che so, per esempio un colpo di frusta e poi dare 3 giorni. Ecco, ma lei, Giuseppe, ce l'ha il coraggio di dire di no ad una persona che viene da lei e magari le chiede chiuda un po' un occhio, dottore, mi faccia un certificato in modo tale che possa andare nell'assicurazione? No, io non parlo di compiacenza, io parlo proprio dal punto di vista medico legale. Ma io le parlo di compiacenza invece. La compiacenza sì, però io volevo dire questo, e per quanto riguarda i biologici bisognerebbe anche andare a verificare che la maggioranza sono i colpi di frusta che facilmente non possono essere diciamo con non possono essere dimostrati? No, non dimostrati, diciamo, è un fatto anche soggettivo. Lo so, però Giuseppe. Però il problema è anche dal punto di vista anche delle macchine, cioè nel senso che il risarcimento delle non biologico, ma delle macchine, abolirlo. Mm. Perché già questo potrebbe, io penso, a mio avviso, un 30-40% in meno di sinistri falsi. Mm. Giuseppe, devo salutarla. 2 minuti e mezzo di tempo, io devo veramente concedere pochissimo sia a Verdone che a Premuti, però Premuti l'ho tenuto in ballo per tutta la seconda parte della trasmissione senza intervenire. So che voi state attivando molti presidi anche come associazione dei consumatori per seguire un po' queste vicende al sud e soprattutto seguire le persone che hanno tutto il diritto a non vedere esplosa la propria tariffa da un semestre ad un altro, e quindi, essendo delle brave persone, evidentemente non molto abituati anche all'attività fraudolenta verso la compagnia di assicurazione, hanno tutto il diritto di avere il migliore servizio. Che indicazioni state dando adesso? Assolutamente sì, il presidio è fortissimo. Tra l'altro, ad esempio, voglio citare un'email che mi arriva proprio stamattina da Foggia, non da Napoli, da Foggia, quindi dalla Puglia, di un architetto che ha un certificato di rischio immacolato e che si vede chiedere 897 euro ogni 6 mesi quando ne pagava 496. Raddoppio secco. Il raddoppio secco dell'inflazione. Noi diciamo questo, intanto di avvalersi delle circolari che ISVAP ha fatto in questi giorni, in cui si raccomanda alle compagnie che l'assicurato, anche in presenza della disdetta, non può essere considerato un nuovo assicurato e la tariffa deve seguire quella che già esisteva. Quindi avvalersi di questa circolare, segnalarci questi casi, perché noi li giriamo tutti all'ISVAP in maniera tale che l'istituto abbia davanti il panorama completo di ciò che sta accadendo al sud. Poi assolutamente un presidio, e in questo caso sì, anche a fianco delle compagnie, perché no? Benissimo. Per combattere le truffe, perché le truffe, le speculazioni sono quelle che ci hanno portato a questo punto. Però sicuramente una tiratina d'orecchia alle compagnie gliela facciamo, perché mentre noi lo diciamo da anni e anni, soltanto oggi si prova ad aprire un tavolo per poter verificare quali sono i sistemi d'uscita. Grazie, grazie. Io so che Verdone mi odierà, purtroppo la trasmissione è terminata, ma l'ho invitato tante volte, lo reinviterò e faremo magari una puntata solo con le compagnie di assicurazione e torneremo di nuovo in maniera molto forte su questo argomento. Intanto grazie a tutti, Salva Danaio torna domani, parleremo di borse, di questa nuova tensione che c'è sui mercati, e buona giornata a tutti.